Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sono 17:08, inizia un'altra puntata di Focus Economia e inizia la cronaca di un'altra giornata di passione sui mercati. È successo e sta succedendo un po' di tutto anche oggi. Allora, nervi saldi, o ciò che resta dei nervi, almeno quelli saldi, vediamo di capire che cosa è successo in questa giornata. Una giornata che già dall'alba buttava malissimo, gli indici delle borse asiatiche sono letteralmente crollati, hanno toccato i cali peggiori della loro storia, soprattutto della storia degli ultimi 20 anni. Questa mattina Giappone, Hong Kong, Cina lasciavano presagire un'altra giornata terribile, poi il tentativo di una svolta che però non è riuscita. Parleremo di questo. Parleremo delle misure che la politica sta cercando di intraprendere a livello anche di azione congiunta, se ci riuscirà l'Europa. Parleremo anche di una vicenda che riguarda l'origine, la genesi di questa crisi. C'è chi ha voluto vedere nella vicenda Parmalat tutti gli elementi, un microcosmo di elementi che hanno portato poi a questa crisi globale, e lì già c'erano, dicono alcuni, tutti gli elementi per capire che cosa non stava funzionando nei mercati finanziari. Ma soprattutto c'è questa audizione interessantissima che già il nostro GR Extra Large vi ha fatto sentire, dell'ex numero uno di Lehman Brothers, Fold, la persona che ha guadagnato di più in assoluto a Wall Street in questi anni, è rimasto a capo della ex banca, non esiste più, per 10 anni. Ebbene, la sua testimonianza la dice lunga e spiega molto di più di tante analisi in che mani, diciamo, la finanza globale si fosse messa e quali errori di valutazione siano stati fatti da persone pagate decine di milioni di dollari per svolgere quell'incarico, che certo non ricoprivano in maniera gratuita. Nel caso specifico di Fold, lui ha avuto tra le buone uscite più importanti nella storia di Wall Street. Nel corso degli anni ha praticamente incassato 490 milioni di dollari, e quando è scoppiato il crack aveva in mano azioni per 685 milioni di dollari. Solo nel 2007 ha incassato 40 milioni di dollari. Quindi sarà interessante sentire dalla voce dell'ex numero uno, dell'ex Lehman Brothers, come si è arrivati a questo disastro dal punto di vista finanziario. Allora, e poi parleremo anche della Banca d'Inghilterra, che ha deciso non solo di tagliare i tassi, ma anche di operare delle garanzie fortissime sul mondo bancario britannico. 50 miliardi di sterline, siamo intorno ai 70 miliardi di euro di garanzia per le banche britanniche. Insomma, stiamo parlando dell'equivalente di 4-5 manovre finanziarie, tanto per dare l'entità della misura. 349-238-6666 per i vostri sms. Diamo l'aggiornamento subito delle borse, l'abbiamo fatto poco fa, ma comunque Milano perde il 6,7%, Parigi il 7,2%, Francoforte il 6,7%, Londra tra le migliori perde solo, si fa per dire, il 4,7%. L'America sta perdendo, ma poco, l'1,5% sul Dow Jones e lo 0,5% sul Nasdaq. Quindi ancora una volta, diciamo, tutto l'effetto della crisi finanziaria si è trasferito in Europa, e chi ne sta patendo in questo momento sulle borse le conseguenze peggiori sono i titoli europei. È vero che l'America già molto ha patito in questi mesi, ma insomma, vedere Autogrill, Tenaris, L'Espresso in pregiro perdere il 12%, Mondadori il 10%, Unicredit il 10%, Intesa il 9,6% e anche Eni l'8,8%, Telecom Italia l'8,6%, è scesa a 85 centesimi per azione, la dice lunga su come si stiano scaricando nel vecchio continente tutti i buboni esplosi all'inizio solo negli Stati Uniti. E allora, raccontiamo questa crisi. Ancora una volta, direi. Dopo la brutta apertura asiatica, questa mattina precipita Tokyo -9,4%, Shanghai -3,2%, Hong Kong -5,5%, Taiwan -5,7%, Sydney 5%, Singapore -5%. Per Tokyo è il calo più brutto dal 1987. Alle 9 apre anche la borsa russa, una borsa difficilissima in questi giorni, in caduta libera, perde il 12%. E a questo punto vengono sospesi i due indici di nuovo. Ho perso il conto ormai, ma sarà almeno la ottava volta che le borse moscovite vengono sospese per eccesso di ribasso. Riapriranno solo venerdì. E l'avvio è bruttissimo anche per le borse europee. Alle 9:30 tutte le borse stanno perdendo in Europa tra il 4 e il 5%. E poi però arriva una notizia che vorremmo festeggiare in maniera un po' ironica, visto che da un po' di tempo che chiedevamo così un intervento anche della Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea che, alcuni di voi lo ricorderanno, aveva alzato qualche mese fa i tassi di interesse ricevendo critiche da tutte le parti. Ebbene, oggi all'una tutte le banche centrali principali del pianeta, quindi BCE, Federal Reserve e anche la Bank of England, ma anche le banche centrali di Svezia e Svizzera, tagliano i tassi di interesse portandoli in Europa dal 4,25 al 3,75%, e noi non possiamo che dire alleluia. Eh sì, lasciateci un po' ironizzare su una banca centrale europea che fino a qualche settimana fa diceva che l'unico compito era l'inflazione, che i tassi sarebbero calati solo quando l'inflazione sarebbe risultata maggiormente sotto controllo. Ebbene, invece no, ha dovuto prendere atto che forse la situazione era un po' diversa. Soltanto lo scorso 3 luglio la banca centrale europea aveva alzato i tassi di interesse dal 4 al 4,25%. Ci si chiede che tipo di scenario immaginasse allora la Banca Centrale Europea, visto che già al 3 luglio c'erano state centinaia di miliardi di euro di svalutazioni porta a casa dai principali gruppi bancari al mondo. Comunque la giornata prosegue, ma prosegue male, perché le borse prima azzerano tutti i cali, si riportano in parità, c'è qualche borsa che tenta anche un leggero e timido recupero, Londra inizia a guadagnare l'1%, Parigi va in parità, Madrid guadagna lo 0,3%, Milano si riporta vicino alla parità, cioè perde lo 0,5%, lo 0,7%. E poi però la situazione regge poco, ossia la diga monetaria, la diga sul costo del denaro messa in atto dalle banche centrali di mezzo mondo non regge, e lo vediamo proprio in questi momenti. Ora noi continuiamo a invitare a non cadere nell'allarmismo, nel panico. Questa è la cronaca dei mercati finanziari, è difficile raccontarla in un altro modo quando nemmeno mezzo punto percentuale di taglio dei tassi di interesse serve alle borse per recuperare qualche punto. Alcuni di voi scrivono già al 349-238-6666, è un'aspirina per curare un malato in metastasi, oddio, non iniziamo con questi paragoni, però forse la medicina arriva tardi ed è insufficiente. Comunque, mentre le borse riprendono a calare vistosamente, arriva un nuovo rapporto del Fondo Monetario Internazionale nel suo World Economic Outlook da Washington. Ci racconta quanto già anticipato ieri, ossia vi saranno dei paesi che andranno in recessione nel 2009. E l'Italia, ahimè, è tra questi: nel 2008 meno 0,1%, nel 2009 meno 0,2%. Devo dire che nel 2009 solo l'Irlanda, secondo il Fondo Monetario, farà peggio dell'Italia. Infatti la Germania dovrebbe crescere di pochissimo, ma avere un segno più, la Francia dello 0,2 l'anno prossimo, dello 0,8 quest'anno. Insomma, si fermerà e frenerà tutta l'economia europea. Con diversi indicatori, appunto, segno meno, secondo il Fondo Monetario, lo avranno solo Irlanda, pesante, meno 0,6% l'anno prossimo, meno 2% quest'anno, e Italia. E poi l'America, il Fondo Monetario dice la recessione a questo punto è sempre più probabile, il rischio per l'economia, il rischio che l'economia rallenti, che vada in recessione è fortissimo e sta aumentando, occorre un'azione coordinata a questo punto non solo più delle banche centrali, e si è visto quanto poco è servito oggi, né è servito in questi mesi iniettare liquidità in continuazione, il Fondo Monetario dice chiaramente l'azione deve essere politica e quindi coordinata da parte di tutti i governi. Perché questo? Perché secondo il Fondo Monetario Internazionale nel settore bancario sono previste ulteriori perdite, e già ieri aveva detto che a fronte di perdite registrate intorno ai 600-700 miliardi di euro, le perdite complessive che questa crisi creerà secondo il Fondo Monetario ammonteranno a 1.400 miliardi di euro. Sono tutte cifre, quello che si capisce è che se va bene siamo a metà del guado. E poi il Fondo Monetario parla anche dei prezzi delle case. Secondo le stime del Fondo Monetario, in Italia, come in Francia, in Olanda e in Spagna, vi saranno correzioni al ribasso nel prezzo delle abitazioni. Nel caso dell'Italia, in Spagna addirittura del 25%, 25-30%. In Italia, secondo il Fondo Monetario, l'Italia ha avuto incrementi meno forti rispetto alla Francia. Comunque il calo nei prezzi delle abitazioni dovrebbe essere tra il 10 e il 20% nei prossimi anni, 2-4 anni, quindi non stiamo parlando del 2009 necessariamente, diciamo nel periodo che va da adesso al 2010-2012. Intanto esce anche Bruxelles, dice attenzione, nel secondo trimestre l'Italia ha segnato un meno 0,2%, la Banca d'Italia nel suo rapporto vede e fotografa imprese pessimiste su inflazione e su accesso al credito, che ripeto è il vero fronte adesso. Se le banche si mettono a chiudere i rubinetti, come stanno alcune già facendo, a imprese, artigiani, commercianti, la crisi da finanziaria diventa tout court economica. La Volvo in Svezia taglia 6.000 posti di lavoro, non solo in Svezia, 4.800 in Svezia, e poi 1.200 consulenti del gruppo verranno tagliati. E a questo punto il G8 diventa sempre più urgente dopo la disponibilità di ieri sera del presidente americano Bush, un G8 allargato, dice sì anche il presidente russo Medvedev, e Sarkozy dice attenzione, dopo l'incontro con il presidente russo è ora di cambiare le organizzazioni G8 e consigli di sicurezza, devono essere allargate. Anche il ministro degli esteri italiano Frattini dice va bene, al G8 straordinario abbiamo un mese di tempo per organizzarlo. Infine il piano britannico, ne parleremo più avanti, 50 miliardi per ricapitalizzare le banche britanniche. Adesso questa è la cronaca sui mercati, che come sempre per cercare di dare la maggior chiarezza possibile svilupperemo in diversi aspetti. Partiamo dal fronte italiano, anche perché si è saputo che domani mattina alle 8.30 il ministro Tremonti, quindi prima dell'apertura dei mercati, riferirà con un'informativa alla Camera sullo stato della crisi. Allora, tra l'altro questa sera vi sarà un Consiglio dei Ministri in programma alle 20, dovrebbe varare un decreto legge proprio sulla copertura dei depositi dei risparmiatori. Vincenzo Miglietta, che questa mattina ha seguito il vertice di emergenza tra Tremonti, ABI, Confindustria e Banca d'Italia, e che sta seguendo anche il Consiglio dei Ministri in attesa del Consiglio dei Ministri. Vincenzo, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa sera il Consiglio dei Ministri varerà un decreto, se abbiamo ben capito Vincenzo, e se comunque se ne è già parlato in mattinata nel vertice di emergenza tra banche, imprese, Banca d'Italia e Ministro dell'Economia. Sì, è così, un comitato durato poco più di un'ora, quello che ha visto intorno allo stesso tavolo i vertici del sistema economico, finanziario, creditizio ed imprenditoriale del paese. Nella riunione, secondo quanto è emerso, è stato analizzato il sistema di finanziamento dalle banche all'economia. I maggiori timori espressi nel vertice sono infatti relativi a quello che viene ormai definito come il possibile cortocircuito tra banche ed imprese. La crisi in atto starebbe bloccando di fatto queste ultime e il sistema produttivo italiano. Da qui, come ricordavi giustamente da studio, la decisione del governo di intervenire questa sera con un decreto per varare misure urgenti per garantire la stabilità delle banche e del risparmio. Dal Tesoro comunque si mostra tranquillità. Un comunicato diffuso al termine del vertice recita: il governo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per stabilizzare il sistema finanziario e per tutelare il risparmio. Il ministro dell'economia Tremonti, sempre nel comunicato, spiega di condividere le misure preannunciate questa mattina oltretutto dal governo inglese. Questo è un po' il punto della situazione, aspettiamo il consiglio dei ministri delle 20. Ecco, il fatto che Tremonti abbia apprezzato le misure prese dal governo britannico, sia un fondo da poco più di 70 miliardi di euro per garantire le banche e ricapitalizzare le banche in difficoltà, vuol dire che secondo te il governo sta pensando di varare un fondo a questo punto nazionale, visto che non è passata l'idea di un fondo europeo? Io penso proprio che la strada sia questa, nel senso che ufficialmente le voci più accreditate danno solamente un intervento per una garanzia dello Stato ai depositi dei risparmiatori, che passerebbe da 20.000 a 100.000 euro. In pratica lo Stato si affiancherebbe alle garanzie già esistenti del fondo interbancario, ma in sostanza questo, secondo le fonti più accreditate, non sarebbe sufficiente, bisognerebbe seguire comunque l'esempio del governo inglese di questa mattina. Certo, perché a questo punto io poi non capisco, ma questo non lo capisco io, adesso ne parleremo con altri ospiti, perché la Germania e la Gran Bretagna, che sono messe così male, non abbiano avuto un fondo europeo e poi facciano iniziative nazionali. Vabbè, ma questo non è sicuramente oggetto in questo momento del programma, ne parleremo più avanti. E quindi dall'incontro di questa mattina, Vincenzo, altri elementi sono emersi? Preoccupazioni degli industriali? Qualche garanzia del mondo bancario? Ecco, sostanzialmente i timori degli industriali, il fatto si leggeva stamattina sui quotidiani, ma è stato ribadito nel vertice, la preoccupazione degli imprenditori di rimanere senza energia, senza acqua, senza il finanziamento quindi delle banche, e questo avrebbe un contraccolpo sicuramente molto importante su un'economia che sappiamo è sostanzialmente ferma. Le banche avrebbero garantito che la situazione del nostro paese è diversa da quella di altri paesi forse più esposti, con prodotti più a rischio. Sul tavolo sono stati fatti dei numeri, messe delle tabelle, bisogna vedere quanto le banche si siano esposte poi con gli imprenditori, con valori certi e sicuri. Grazie per ora Vincenzo Miglietta, in collegamento con noi da Palazzo Chigi, dove questa sera tra l'altro appunto vi sarà un vertice straordinario del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare questo decreto per estendere la copertura dello Stato sui depositi dei risparmiatori, dovrebbe fornire anche garanzie alle imprese perché non si verifichi questo cortocircuito pericolosissimo, la famosa spirale per cui che farebbe transitare, lo ripetiamo, la crisi dalla finanza direttamente all'economia. E poi vedremo se di fondo anche l'Italia non sarà obbligata a fare quello che hanno fatto Germania e soprattutto oggi la Gran Bretagna. E allora, magari alla mia domanda può rispondere corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Beda Romano. Buonasera Beda. Buonasera. E poi parliamo della Banca Centrale Europea, non so, forse non hai sentito, ma abbiamo accolto la decisione con le campane a festa, un po' per ironizzare, tu sai, il nostro scetticismo, però la domanda iniziale è questa: perché secondo te Gran Bretagna e Germania si sono opposte a questo fondo europeo, se poi di fatto oggi la Gran Bretagna se l'è fatto in casa il fondo per ricapitalizzare le banche, e la Germania da sola, senza chiedere a nessuno, domenica, con un effetto poi boomerang, ha deciso di garantire tutti i depositi bancari? Ma credo che per la Germania la ragione sia relativamente semplice. Ho l'impressione che la Germania abbia paura in questo momento che un fondo europeo sia in realtà un fondo tedesco. Rischia, in altre parole, di dover pagare la quota più elevata in un fondo europeo, e teme di non soltanto dover pagare la quota più elevata, ma di perderne fondamentalmente il controllo. Quindi in un momento come questo la Germania preferisce la situazione caso per caso e fondo nazionale. Questo credo sia il motivo principale. E quindi ha paura che poi insomma sia lei a reggere il carico di tutto il fondo, sì, di tutto il fondo europeo. Assolutamente, poi naturalmente probabilmente c'è anche un ragionamento più puntuale. Ci sono delle banche che sono italo-tedesche o italo-tedesche-austriache. E probabilmente c'è il timore da parte dell'establishment tedesco di dovere a un certo punto salvare eventualmente delle banche che non sono soltanto tedesche, ma sono in parte soltanto tedesche, e invece vuole evitare questa possibilità, ecco perché dice preferiamo il fondo nazionale piuttosto che il fondo europeo. Allora, io adesso passo al tema dei tassi di interesse. Non vorrei marmaldeggiare, essere impietoso con una banca centrale europea che nella migliore delle ipotesi ha cannato tutto lo scenario. Però non si può nemmeno far finta di essersi svegliati oggi e che la storia inizi con mercoledì. Perché te lo dico? Perché oggi la banca centrale europea, assieme alla banca del Giappone, la banca d'Inghilterra, la Federal Reserve, al Canada, alla Svizzera, alla Svezia, ha tagliato i tassi di mezzo punto percentuale. Li ha portati al 3,75% e fin qui tutto bene, azione concertata che non ha avuto alcun effetto visto che i mercati perdono il 6%, però che viene accolta come un'azione concertata. Quello che vorrei farti ascoltare è che cosa disse Trichet non 3 anni fa, ma 3 mesi fa, eravamo a luglio, il 3 luglio per la precisione, quando annunciò di aver alzato i tassi di interesse. A quel punto, a luglio, 3 mesi fa, c'erano già stati più di 300 miliardi di dollari di svalutazioni operate dalle banche e il Fondo Monetario Internazionale stimava che questa crisi sarebbe costata quasi 1.000 miliardi, adesso dice 1.400, ma a luglio diceva 1.000 miliardi, quindi non è che fosse una situazione completamente migliore o decisamente migliore rispetto a quella attuale. Sentiamo perché la Banca Centrale Europea il 3 luglio i tassi, in un marasma della finanza già assolutamente in corso, li ha alzati. We decided at today's meeting to increase the key ECB interest rates by 25 basis. Alla riunione odierna abbiamo deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa per prevenire effetti di second round sui prezzi e per contrastare i rischi al rialzo per l'inflazione nel medio periodo. L'inflazione ha continuato a crescere in modo significativo dallo scorso autunno e ci aspettiamo che i prezzi al consumo rimarranno alti per un periodo più lungo di quanto avevamo previsto. I fondamentali dell'economia della zona euro restano solidi, ma continuano a esserci rischi al ribasso. Penso che in questo momento non ci sia nessuno che dica che ci sono episodi di stagflazione a livello globale. Penso che stiamo assistendo ad un momento in cui l'economia globale sta dimostrando di tenere. At the global level have an economic situation which is a situation where growth is there. Allora, Beda, io so che tu non fai portavoce della Banca Centrale Europea, però oggettivamente ridiamo per non piangere. Un presidente della Banca Centrale Europea che a luglio, il 3 luglio, dice i fondamentali dell'economia restano buoni, ci sono prospettive di crescita, il nostro problema è l'inflazione. Io ti chiedo dove abita Trichet, quanto è alto il grattacielo a Francoforte, perché evidentemente vivono in una stratosfera distante dalla realtà quotidiana. Beda. Credo che la Banca Centrale abbia deciso in luglio di aumentare il costo del denaro perché la situazione finanziaria certo non era delle migliori, le banche avevano già delle difficoltà, il mercato monetario soffriva e si era profugato nel corso dei mesi precedenti, ma nel frattempo le aspettative di inflazione erano elevate ed erano salite molto. Nel frattempo il prezzo del petrolio ai tempi era molto più elevato di quanto non lo sia oggi, credo che stesse intorno a $145 al barile, oggi siamo intorno a $90 al barile. E in quella circostanza la banca ha pensato che aumentare il costo del denaro fosse necessario per frenare le aspettative di inflazione e lanciare un messaggio alle parti sociali e alle imprese di serietà. Il messaggio era: fate attenzione, non aumentate eccessivamente i tassi, non aumentate eccessivamente i salari, perché vi sarebbe una ricaduta sull'inflazione e dovremmo alzare ulteriormente il costo del denaro. Allora, oggi la Banca Centrale spiega che nel frattempo le aspettative di inflazione sono scese, che l'inflazione dovrebbe scendere e che quindi in questo momento può ridurre il costo del denaro. L'effetto ottico non è dei migliori, ma credo che a noi convenga dare alla Banca Centrale Europea il beneficio del dubbio. Bene, io apprezzo, perché già ho capito benissimo, l'effetto ottico non è dei migliori, no, certo, è difficile poi spiegare com'è che se ne sono accorti di una situazione in 3 mesi. Ha preso una topica, ma una topica, diciamo, giustificata dagli elementi che tu prima ricordavi, un petrolio a diversi prezzi, a mio avviso anche un po' di ossessione diciamo da Bundesbank sull'inflazione, però sappiamo che è la missione della Banca Centrale Europea, che quello è quello a cui deve guardare, insomma, forse però un po' più di prudenza la prossima volta e magari anche, insomma, capire che la situazione stava già buttando male. E Beda, che cosa potrebbero fare adesso le banche centrali europee? Lasciamo stare il passato, la topica le prendiamo tutti, l'ha presa anche la BCE. Ma che è cosa? Anche la Fed. E anche la Fed ne ha prese più di una in questi anni. Che cosa potrebbero fare adesso le banche centrali? Cioè, questa mossa non ha ottenuto grossi effetti, vuol dire che al mercato non basta più nemmeno il taglio del costo del denaro, oppure secondo te diamo tempo perché questo taglio si scarichi poi sui mercati? Io credo che la banca abbia agito in questo momento, vi sono fondamentalmente 3 leve che sono in questo momento utilizzate in Europa. C'è la leva politica, in altre parole le garanzie pubbliche alle banche o ai depositi, o il fondo spagnolo di riacquisto delle obbligazioni di cattiva qualità. Insomma, i governi stanno intervenendo in modo non particolarmente coordinato, ma stanno intervenendo. Poi c'è la leva monetaria. La Banca Centrale Europea oggi ha deciso di ridurre drasticamente il costo del denaro, 50 punti base, dal 4,25 al 3,75. E poi c'è la terza leva, che è la leva della liquidità, ed è la leva che agisce sul mercato interbancario, che poi alla fine è il vero problema di questa situazione. Le banche continuano a non prestarsi denaro, questo provoca un aumento del costo del denaro sul mercato interbancario e questo aumento dei tassi di interesse provoca una ricaduta sull'economia reale. A questo punto la banca deve agire su quest'ultimo aspetto, sul mercato interbancario. Dobbiamo immaginare che possa avere altre cartucce nel suo zaino e che debba a un certo punto riuscire a indurre le banche a prestarsi i soldi. E prestarsi i soldi e a ricominciare a far funzionare il mercato interbancario. A prestarsi i soldi, a prestarli anche alle imprese, poi a chi ne ha bisogno. In una battuta, perché siamo fuori ogni tempo massimo, la crisi a questo punto è... la risposta alla crisi a questo punto, Beda, secondo te può essere solo politica, visto che i mercati non ascoltano le banche centrali? Io non credo che i mercati non ascoltino le banche centrali. Aspettiamo che le banche centrali adottino magari altre misure iniziative sul certo mercato interbancario. Chiaro. Però è evidente che questa è una crisi che da finanziaria è diventata bancaria e che ormai la politica ha un peso preponderante rispetto alla banca centrale, assolutamente. Questa è una crisi che può essere risolta soltanto dalla politica, non dalla banca centrale. E quindi è un altro livello della crisi, un altro, ha cambiato qualità, colore questa crisi. Grazie Beda Romano. Ormai, se va bene, diciamo, lo scoppio della bolla immobiliare americana pesa per un quinto, un settimo, un ottavo, tutto il resto è il castello di carta finanziario che era costruito su questi mutui, ma non è un problema di mutui, perché per quanto il mutuo possa essere a rischio, male che vada la casa te la ricompri, e se anche il mattone va giù potrai perdere il 10, il 20, il 30%, ma non è che tu perda tutto. Altra cosa è la carta su carta, contratti su contratti, assicurazioni su contratti, quella roba lì può diventare, e lo è già diventato in alcuni casi, carta e basta. Allora, non c'è molto oggi da dire sul mercato, perché quando la borsa perde il 6% in generale, per la precisione un leggerissimo recupero nel finale, Parigi perde il 6,3%, Amsterdam il 7,8%, Francoforte il 5,9%, Londra il 5%, Milano ha perso il 5,7% nel finale sui due indici. Si è salvato solo Prismian più 7% e il Banco Popolare in recupero più 3%, così come Finmeccanica più 1,6% e il Monte dei Paschi più 0,6%, Atlantia più 0,3%. Invariata Mediolanum e anche Fondiaria, ma anche Generali, e vista la giornata questa è già una medaglia. Mentre il peggior titolo nel finale, Unicredito, di nuovo perde il 12,5%, scende a 2,42 euro. In pregilo, meno 12,1%, Tenaris meno 10,8% come l'Espresso, Mondadori perde il 9,9% come Autogrill, Eni perde il 9,7%, Fastweb perde il 9,2%, Telecom perde l'8,9%, Alleanza perde il 7,8%, la Banca Popolare di Milano perde un altro 7,6%, Saipem il 7,4%, Intesa perde il 5,6%, Fiat è scesa sotto i 7 euro per azione, 6,98 euro, 5,75% il calo, Parmalat meno 5,6%, Geox meno 5,3%, STMicroelectronics meno 5,1%, chiudiamo con Lottomatica e Mediobanca che perdono il 4,5%, Buzzi, Unicem ed Enel che perdono il 3,7%, Unipol e Italcementi perdono il 3,6%, A2A il 3,1%, Ubibanca perde il 3,1%, Bulgari il 2,7% come Luxottica e Pirelli, Mediaset meno 2,5%, Terna meno 1,8%, l'euro è in recupero a 1,36,78, non a caso oggi sul mercato, visto che non ve l'abbiamo ancora dato, il petrolio ha avuto un andamento altalenante e poi scivolato per le scorte americane ed è sceso sotto i 90 dollari a 88,17 dollari. Questi i mercati, ripeto, non c'è molto da commentare. Ora il Dow Jones perde il 2%. Questi mercati, dicevo, però vorremmo anche con i nervi saldi farvi ascoltare che cosa ha dichiarato l'uomo che ha guidato per 25 anni una banca che non c'è più e che si chiama Lehman Brothers, che ha guadagnato come compensi 40 milioni di dollari solo nel 2007, che aveva incassato negli anni mezzo miliardo di dollari di azioni come guadagno. Si chiama Richard Fuld, è stato licenziato chiaramente, non esiste più la banca. Sentite che cosa ha raccontato nell'audizione parlamentare al Congresso l'ex numero uno di Lehman Brothers nell'audizione di ieri. We had a long-dated compensation system. Look, I am not proud of the fact. Avevamo un sistema di remunerazioni ben rodato. Non sono orgoglioso del fatto che ho perso così tanto denaro, ma è stato dimostrato un fatto, e cioè che il nostro sistema di remunerazioni funzionava. Ripeto, non sono orgoglioso di questo, ma quando la società ha iniziato ad andare male, io ero il maggior azionista singolo. Non mi aspetto che siate dispiaciuti per me. Voglio però sottolineare che il sistema ha funzionato. Non abbiamo ingannato i nostri investitori, lo nego fermamente. Ho fatto il meglio che potevo, date le informazioni a disposizione. Abbiamo compiuto azioni che credevamo assolutamente appropriate. Come tante altre istituzioni finanziarie, anche Lehman Brothers è caduta in questo tsunami finanziario. Voglio essere molto chiaro su un punto. Mi assumo completamente la responsabilità delle decisioni e delle azioni prese. In base alle informazioni disponibili, credo che le decisioni e le azioni intraprese siano state sia prudenti che appropriate. Nessuno di noi ha la capacità di portare indietro le lancette dell'orologio, ma con il senno di poi, se mi chiedete se avrei fatto le cose diversamente, rispondo di sì, avrei agito diversamente. Lehman Brothers è stata minata da molti fattori destabilizzanti. Il crollo del mercato immobiliare, false voci, abbassamenti di rating da parte delle agenzie, calo di fiducia della clientela. Ripeto, questa non è solo la storia di Lehman Brothers. È una storia diventata oramai troppo familiare. È troppo tardi ormai per Lehman, ma il governo è stato costretto a cambiare le regole in modo significativo e ora fornisce il sostegno a diverse istituzioni. Avevamo a disposizione un comitato di remunerazione che ha lavorato moltissimo per assicurare che gli interessi dei vertici e dei dipendenti fossero in linea con quelli degli azionisti. I miei dipendenti possedevano circa il 30% della società, e questo perché volevamo che pensassero, agissero e si comportassero come azionisti. Quando la società era in buone acque, anche noi lo eravamo. Quando ha avuto problemi, anche noi li abbiamo avuti. La maggior parte del mio compenso veniva sotto forma di azioni e la maggior parte di quelle azioni erano in mio possesso fino al momento del fallimento. Riguardo la cifra di 500 milioni di dollari come mio compenso nell'arco di diversi anni, credo che non sia giusta. Stiamo parlando di 60 milioni di dollari, sebbene sia ancora una cifra molto alta. Credo che complessivamente il totale sia di poco meno di 250 milioni, una cifra comunque molto alta. Beh, insomma, sono 750 miliardi, scusatemi, sono 500 miliardi di vecchie lire di stipendio, non riesco neanche a dirlo, per avere portato Lehman Brothers a scomparire dal panorama delle banche mondiali. Non c'è male come risultato. E poi forse questa crisi nasce proprio, come dicono alcuni, dal fatto che questi manager non rispondessero più a nessuno, che negli Stati Uniti la remunerazione media dei dirigenti delle maggiori banche e compagnie americane era 275 volte superiore al salario del lavoratore medio, negli anni 70 era appena 35 volte in più. E come commentare la media dei bonus di uscita prevista per i primi 140 manager americani? Una media di 21 milioni di dollari, 40 miliardi quasi delle vecchie lire a cranio in media per come solo buona uscita. E allora, dopo le informazioni per chi è in viaggio, cerchiamo di capire perché già nel crack Enron WorldCom e a casa nostra, nel crack della Parmalat, ci fosse già tutto dentro, in microcosmo, tutti i controlli e la carta su carta fosse già assolutamente presente. Il crollo della finanza internazionale, che ha fatto sparire il settore delle banche d'affari in pochissimo tempo, questi padroni del mondo di questi ultimi 30 anni, non esistono più le banche d'affari famose americane, è a mio avviso la migliore dimostrazione che l'intuizione che la Procura di Parma e la Procura di Milano hanno avuto nel 2003 era giusta, come era giusta la conseguente decisione di considerare le banche corresponsabili del crack della Parmalat. Questo processo ha accertato documentalmente che le banche hanno collaborato all'informazione al mercato tutti i giorni e tutte le notti, con informazioni false, e di tutta evidenza che la Parmalat non poteva resistere un solo giorno senza questa rete di complicità e di coperture totali e globali. La favoletta alla quale non credono più nemmeno i bambini, della inconsapevolezza o della buona fede delle banche, è miseramente crollata. Non è un caso che nelle email di Citibank, se non sbaglio, la Parmalat sia stata definita la gallina dalle uova marce d'oro. Marce, ce lo aggiungo io, richiamando la famosa frase di Loss, che non è importante se io vendo un nuovo marcio, importante è che lo dica. Il 12 novembre l'analista di BofA, che si chiama Mike Vasilash, ha definito in uno studio mandato al mercato la vicenda Parmalat come un brutto film di mafia. E nello stesso tempo però Bank of America stava cercando ancora di rifinanziare l'operazione brasiliana. Allora, Raffaella Calandra, tu due giorni fa hai seguito la requisitoria del procuratore aggiunto Francesco Greco, quella in cui i PM hanno chiesto 13 anni per Tanzi, ma non solo. Perché i parallelismi? Beh, c'è un articolo del 6 gennaio 2006. Lehman Brothers lanciò l'allarme Parmalat prima del crack di dicembre 2003. La Lehman lanciò l'allarme, peccato che poi l'allarme dovesse lanciarlo su se stessa, visto che non esiste più. E ancora, come capitò questa crisi? Alcuni di voi dicono non c'entra nulla. No, attenzione, Parmalat fallisce nel momento in cui si scopre che dentro la Bank of America non c'erano 4 miliardi di dollari di conto Bonlat. E come mai la Bank of America se ne accorge solo a dicembre? 4 miliardi non sono pochi. Raffaella, poi ne parleremo dopo il GR, ma insomma, i parallelismi vi sono stati? I parallelismi sono stati portati avanti in tutti i 3 giorni di requisitoria, divisi in 3 diversi PM, e proprio uno di loro, anche Eugenio Fusco, ha proprio esordito la sua requisitoria facendo un parallelo proprio con le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Lehman Brothers e soffermandosi sulle comunicazioni al mercato, di cui poi è la l'argomento, insomma, del processo per aggiotaggio qui a Milano. Parallelismi che si, diciamo, ripercuotono tuttora nell'attenzione che in procura al quarto piano il Dipartimento sui reati economici c'è ora in queste convulse giornate di crisi finanziaria, con un'attenzione ovviamente rivolta soprattutto al fronte italiano. Ci potrà essere un risvolto giudiziario? Per ora forse è prematuro ipotizzarlo. Di sicuro Guardia di Finanza e Consob sono già, diciamo, non solo allertate ma anche già in azione per acquisire informazioni, chiamiamole preventive, diciamo così. Di tutto questo ovviamente non può lasciare indifferenti le toghe coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Greco, appunto le stesse toghe che hanno portato a termine appunto la requisitoria al processo Parmalat. Allora, dopo il GR ascolteremo un altro passaggio di Greco, perché proprio parla della carta su carta, e tu hai fatto bene a ricordare che qualora dovessero esserci delle ipotesi di reato, in questo caso penso soprattutto all'aggiotaggio, saranno gli stessi PM più o meno della requisitoria Parmalat a occuparsene, quindi Greco e Fusco. Ecco perché vorremmo farvi sentire anche nella seconda parte del programma che l'analisi di Greco, i parallelismi continui con questa crisi. Attenzione, anche in Parmalat non vi furono i revisori contabili, non vi furono i sindaci a guardare che cosa stava capitando, gli amministratori erano strapagati, mancarono le agenzie di rating che tennero alto il livello fino all'ultimo, mancò forse un po' di vigilanza della Consob e anche della Banca d'Italia. E infine ci furono banche compiacenti. Com'è possibile che la Bank of America si accorgesse solo a dicembre che quei 4 miliardi che la Parmalat vantava di avere lì in un conto corrente non c'erano? Ora sappiamo perché nessuno controllava bene questi conti. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in un'altra giornata pesante per tutte le borse. Per chi si fosse appena messo in collegamento, Milano ha perso il 5,7, Parigi il 6,3, Francoforte il 5,9, Londra il 5,2, complessivamente l'Europa ha perso il 6,5 in media, con Amsterdam la peggiore, meno 7,8%, l'America sta perdendo il 2,2%, nonostante il taglio di mezzo punto percentuale nel costo del denaro operato dalla Banca Centrale Europea, dalla Federal Reserve, dalla Banca d'Inghilterra, dalla Banca del Canada e dalle banche centrali di Svezia e Svizzera. Ne parleremo fra qualche minuto. Vorrei però concludere questo parallelo per ogni tanto anche respirare, non andare solo sulla cronaca, tra il crack Parmalat e quello che sta succedendo ed è successo in America nelle grandi banche di investimento. Dicevamo, i controlli mancati, beh, c'era già tutto lì, per quanto in piccolo, nella Parmalat. Le garanzie e diciamo, lo scarso controllo delle banche americane, la Bank of America scopre solo a fine dicembre di non avere un conto corrente, il famoso conto corrente Bonlat, dove Parmalat diceva ci fossero 4 miliardi di dollari a garanzia di tutti i debiti che aveva contratto, e anche lì non si è mai capito come mai la Bank of America si fosse svegliata solo il 19 dicembre. Sentiamo un altro passaggio nella requisitoria del PM Greco. Signor Presidente, a differenza dei comuni cittadini, ai quali le banche, quando gli erogano un mutuo, gli fanno delle due diligence, queste sì, serie, per la Parmalat le porte erano sempre aperte, poiché il rischio Parmalat veniva immediatamente trasferito al mercato. Per non parlare poi dei prodotti finanziari che sono stati rifilati alla Parma. Hanno venduto tutte quelle schifezze di cui oggi parlano i giornali. Programma di cartolarizzazione dei crediti commerciali, Parma ce l'aveva. Credit Link Notes, Parma ce l'aveva. Credit for Swap, Parma ce l'aveva. Asset Backed Securities, Parma ce l'aveva. Cioè tutte queste qui che oggi vengono definite titoli tossici, Parma gliel'avevano rifilati tutti. Del resto, la logica che ha guidato la finanza in questi anni e che sta portando il mondo alla rovina è questa, carta. Con la triste conseguenza che, come al solito, i conti, come in questo processo, li pagheranno i cittadini, non certo gli ex padroni dell'universo, come li ha definiti Wolf, che ormai i loro guadagni li hanno occultati in paradisi fiscali, da Liechtenstein a Bahamas. Dove pensate che il governo americano tirerà fuori 700 miliardi di dollari che ha previsto dalle tasche dei cittadini? E la cosa che più impressiona in questa storia è che si parla di soldi, ma non di regole. Non si creano i presupposti per impedire che per il futuro le banche continuino a fare quello che hanno fatto fino adesso. Insomma, i paralleli, l'intreccio tra quello che è successo con Parmalat e quello che sta capitando adesso a me sembra chiarissimo. E allora, Raffaella Calandra, non è sto solo Greco a usare l'esempio degli strumenti di carta che adesso stanno travolgendo tutti i mercati e i gruppi bancari, di cui si era rimpinzata, che erano stati infilati dentro la Parmalat. No, infatti anche gli altri due colleghi che lo hanno preceduto nella requisitoria, Carlo Nocerino e Eugenio Fusco, e questo secondo in particolare ha proprio cominciato la sua requisitoria nel secondo giorno ricordando che, come l'ex ormai amministratore delegato delle Lehman Brothers solo pochi mesi fa aveva voluto rassicurare il mercato e smentire quelle voci che circolavano, diciamo che cominciavano a circolare sull'effettivo stato della Lehman Brothers, e poi sappiamo come è andata a finire, così anche Parmalat fino alla fine sulla carta aveva la situazione migliore possibile, una realtà virtuale l'ha definita Fusco nella sua requisitoria, perché a fronte appunto di carte e di bilanci che sembravano perfetti, anzi addirittura ricordava Fusco che Parmalat doveva essere all'avanguardia anche per l'acquisizione delle normative per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, e invece poi sappiamo tutti che tutto questo cartello di carte appunto si è sgonfiato e crollato sia per la Lehman sia per Parmalat. Chi di carta ferisce, di carta perisce, potremmo dire un po' banalizzando. Detto questo, attenzione, perché poi i PM sono gli stessi, non c'è ancora nessun reato, indagine aperta, però se poi pensiamo che vi abbiamo fatto sentire l'audizione di ieri al congresso americano dell'ex numero uno di Lehman Brothers, alcuni di voi stanno scrivendo imbufaliti, quando Richard Fuld dice: no, io non guadagnavo tanto quanto c'è scritto, in realtà non erano 500 milioni di dollari, ne ho guadagnati 250 di milioni di dollari. Beh, vabbè, per aver fatto fallire la Lehman Brothers non è male nemmeno quello. Le informazioni per Chi è in Viaggio, grazie a Raffaella Calandra, e poi di nuovo sulle prossime iniziative tra il politico e diciamo il monetario. Le banche centrali si muovono, questo non serve, e tutti gli occhi sono puntati sulle iniziative dei singoli governi. We decided at today's meeting to increase the key ECB interest rates by 25 basis. Alla riunione odierna abbiamo deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa per prevenire effetti di second round sui prezzi e per contrastare i rischi al rialzo per l'inflazione nel medio periodo. L'inflazione ha continuato a crescere in modo significativo dallo scorso autunno e ci aspettiamo che i prezzi al consumo rimarranno alti per un periodo più lungo di quanto avevamo previsto. I fondamentali dell'economia della zona euro restano solidi, ma continuano a esserci rischi al ribasso. Penso che in questo momento non ci sia nessuno che dica che ci sono episodi di stagflazione a livello globale. Penso che stiamo assistendo ad un momento in cui l'economia globale sta dimostrando di tenere. At the global level have an economic situation which is a situation where growth is there. Professor Mario De Aglio, editorialista della Stampa e docente all'Università di Torino, insegna economia internazionale, buonasera. Buonasera a lei. Incredibile, no? Abbiamo fatto sentire il motivo per cui Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, il 3 luglio non del 2007, non del 2006 o del 2005, ma il 3 luglio di tre mesi fa, alzò i tassi di interesse. Quindi del 2008. Del 2008. E quando già il Fondo Monetario Internazionale diceva che il danno sarebbe stato intorno ai 1.000 miliardi di dollari, quando già la maggior parte delle banche americane, ma non solo, avevano svalutato per 300 e passa miliardi di dollari. È incredibile, perché si sente un presidente della Banca Centrale Europea che dice: la crescita c'è, l'economia è solida, il nostro problema è l'inflazione. È un po' come sparare sulla Croce Rossa, però vorrei un suo primo commento sulla cantonata, la topica, lo strabismo, l'effetto ottico di cui è rimasta prigioniera la Banca Centrale Europea, visto che oggi i tassi li ha tagliati di mezzo punto, come le altre banche. Credo che si possa dire questo, che i mezzi di informazione hanno osannato le banche centrali dall'inizio della crisi, tutte le volte che muovevano i tassi, facevano qualcosa, era un coro di lodi perché loro sapevano di più. In realtà si scopre che le banche centrali erano poco informate e che soprattutto sono degli apprendisti stregoni, cioè non sanno bene che cosa fare. è meglio che ce lo diciamo tutti apertamente, non sanno bene che cosa fare, ci provano onestamente, ma la crisi è così nuova che sconvolge gli schemi anche teorici su cui si sono formati i banchieri centrali, e gli strumenti che hanno in mano non sono sempre più adatti. E vabbè, insomma, diciamo che tutti sbagliano e anche Trisce, vorremmo un po' meno di, delle volte così, di saccenza ieratica da parte della Banca Centrale Europea, che era così sicura che l'economia europea tenesse, che così sicura che la crescita ci fosse. Dopo tre mesi si accorge che non c'è la crescita, che l'economia non tiene e che i tassi vanno tagliati. Veniamo al nuovo fronte. A me sembra molto chiaro che, vista la giornata di oggi sui mercati, tonfi tra il 5 e il 6% in tutte le borse europee, nemmeno la mossa delle banche centrali venga letta come sarebbe stata letta alcuni tempi fa. La dimensione, il livello a questo punto è tutto politico. La Gran Bretagna oggi, con una mossa assolutamente senza precedenti in Europa, ha deciso in sostanza di entrare, che lo Stato entrerà nel capitale delle banche, ha messo a disposizione 50 miliardi di sterline, 70 miliardi di euro per le banche che sono in difficoltà, vanno lì, danno azioni privilegiate, in cambio beccano i soldi, così lo Stato entra nel mondo bancario britannico. È questo il prossimo fronte? Garanzie sui depositi le ha già fatte la Angela Merkel, l'effetto si è visto, ha aggravato la percezione della crisi invece che rassicurare, ma insomma, garanzie sui depositi, questa sera c'è un Consiglio dei Ministri che arriverà a un decreto su questo, e fondo a disposizione delle banche, per cui di fatto lo Stato, noi tutti, mettiamo i soldi dentro le banche per non farle collassare? Direi di sì, direi che questo è il nuovo fronte, per la prima volta si affronta la malattia non nei suoi aspetti periferici, ma nel suo nodo centrale. Le banche hanno sbagliato, diciamo in termini generali, bisogna cambiare qualcosa nel modo di operare delle banche. Per cominciare a cambiare qualcosa, probabilmente un ingresso, tra l'altro gli inglesi l'hanno fatto in forma molto attenuata, cioè con azioni privilegiate che non votano nelle decisioni ordinarie, ma si potrebbe pensare anche a qualcosa di più, un ingresso nelle banche dovrebbe cominciare a impostare una soluzione del problema. Credo che dopo questo bisognerebbe pensare a che cosa non ha funzionato nei meccanismi del mercato finanziario, e quindi dire che certi tipi di operazioni non si possono fare più, altri tipi si possono fare con dei limiti maggiori di quelli che si fanno adesso, e probabilmente anche che ci devono essere dei ricambi di vertice laddove sono stati compiuti dei gravi errori. Allora, in tutto questo io ricordo che lei un anno e due mesi fa, nella prima puntata che dedicammo, forse ve la faremo anche risentire un giorno, alla crisi dei mutui subprime, nessuno capiva bene che cosa avrebbe portato, sembrava una crisi americana, lei disse attenzione, qui le banche non si fidano perché non sanno che cosa hanno dentro, e sembrò un po' a noi una così un'esagerazione, ahimè era tutto anche più vero di quanto lei non ha immaginato, io questo glielo riconosco, professor De Aglio. Le chiedo adesso però, lei sta prospettando, diciamo, come intervento finale una rinazionalizzazione di fatto delle banche, perché io non vorrei che si tornasse anche indietro di 20 anni a sto punto, comunque. Ma guardi, io penso che dovremmo guardare con attenzione l'esempio svedese. Gli svedesi si trovarono con una crisi per molti aspetti simile a questa nel 1992, dopo la fine dell'Unione Sovietica. La Svezia commerciava molto con l'Unione Sovietica, aveva molti crediti e non c'era più l'Unione Sovietica, quindi non venivano pagati. La Svezia aveva sostanzialmente 5 banche, tutte e 5 andarono in crisi. Lo Stato le nazionalizzò, mise in una bad bank i loro crediti cattivi, e poi questi si cercò di rinegoziarli con i russi in altro modo, e poi gradualmente rimise sul mercato le azioni di queste 5 banche, e oggi le 5 banche sono private, sono ripulite di questa operazione e il sistema funziona. Ora mi rendo conto che la Svezia è un paese piccolo, per cui queste cose sono più facili. Sì, no, io vedo anche un problema sul debito, perché la Svezia è un paese piccolo e non ha molto debito, non ha molto deficit. Ora io mi chiedo, noi paesi europei dell'area euro, apro una parentesi, meno male che c'è l'euro, chiusa la parentesi, ma d'accordo, dico, No, perché tante critiche all'euro negli anni passati, figurati cosa sarebbe successo se non ci fosse stato l'euro adesso, con la vecchia lira. Ma dico, i paesi dell'area euro sono vincolati dal trattato di Maastricht a ridurre il deficit e ridurre il debito. Ora, qui il problema che si pone è a livello europeo, sospendiamo Maastricht per qualche anno, perché se lo Stato italiano deve tirar fuori decine di miliardi, o lo Stato francese, o quello tedesco, non gli si può poi chiedere di essere rispettoso del deficit al 3% o al 2% o all'1,9%. Professore. Ma io credo che sul debito per interventi di questo genere è bene sospendere Maastricht. Sarebbe stato meglio se ci fosse stato un fondo europeo per cui non andava a toccare i debiti dei singoli paesi, ma i debiti dell'Unione. Comunque la cocciutaggine dei tedeschi ha impedito questo. I tedeschi in queste cose non sono molto rapidi, adesso forse si accoderanno anche loro. Per quanto riguarda il deficit, io credo che bisogna cominciare a interpretare questo trattato per quello che dice, perché è molto più flessibile di quello che è stato fatto fino adesso. Cioè il trattato, il patto di stabilità dice che si può non contare nel 3% famoso tutta una serie di spese che invece sono state sempre contate, e questo potrebbe fare circa un mezzo punto in più. Se noi avessimo un mezzo punto in più di PIL a disposizione e magari, che so io, riducessimo le imposte per questo mezzo punto, soprattutto là dove la riduzione di imposte si traduce immediatamente in maggiori consumi, cioè sui redditi più bassi, io credo che anche la temutissima recessione non ci sarebbe. Quindi lei dice bisognava far passare la proposta di Sarkozy e Berlusconi di un fondo europeo, la Germania si è opposta, la Germania si sta muovendo molto da sola, domenica ha annunciato questa operazione sui mutui senza chiedere un'azione congiunta, la Bundesbank, scusatemi, volevo dire la BCE, il lapsus è un po' freudiano, la BCE adesso ha capito che la crisi c'è e noi apprezziamo, alcuni di voi ci chiedono una nota di speranza per quello che riguarda la giornata e i prossimi giorni. Vabbè, facciamo così, nel ringraziare Mario De Aglio, editorialista della Stampa nonché docente di economia internazionale alla statale di Torino, Politecnico di Torino, scusatemi, vi posso dare la notizia che questo fine settimana le previsioni del tempo sono buone, per cui potrebbe essere un bel weekend. Io di più non posso dire, vi lascio alla nostra programmazione domani un altro giorno dalle 17 in poi con Focus Economia.